A bordo campo di Dario Ricci. In questo momento siamo all'interno di un programma. Abbastanza facile da capire. Abiti diversi, spinotti nelle braccia e in testa assenti. Anche i tuoi capelli sono cambiati. Il tuo aspetto attuale è quello che noi chiamiamo immagine residua di sé. La proiezione mentale del tuo io digitale. Questo non è reale. Che vuol dire reale? Dammi una definizione di reale. Se ti riferisci a quello che percepiamo, a quello che possiamo odorare, toccare e vedere, quel reale sono semplici segnali elettrici interpretati dal cervello. 30 grammi di peso, 1 centimetro per 3,5 di ingombro. Potrebbe essere in questo piccolissimo oggetto l'arma segreta, la chiave, il colpo che non ti aspetti, che potrebbe far vincere agli azzurri di Cesare Prandelli il prossimo mondiale in Brasile? Beh, questo ancora non lo sappiamo, ma certo che sulla strada che ci sta portando verso i mondiali brasiliani, mondiali che saranno sicuramente difficilissimi sia in campo sia anche al di fuori del campo per le difficoltà logistiche e ambientali che ormai ben abbiamo imparato a conoscere, ecco, la nazionale azzurra si è dotata di questa arma segreta piccolissima eppure importantissima che oggi vi vogliamo presentare qui a bordo campo. Per farlo un ospite davvero particolare, giocatore di football americano 31enne di De Senzano e soprattutto ingegnere aerospaziale. Benvenuto a bordo campo a Tommaso Finadri. Ciao a tutti, grazie, ciao. Allora Tommaso, non ti offenderai se tra le tue caratteristiche sportive, tra l'altro giocatore di football americano, anche pluricampione d'Italia se non sbaglio, vero? Gli ultimi 3 anni abbiamo vinto lo scudetto con i Parma Panthers e loro sono campioni da 4, io mi sono aggregato l'anno successivo. Tra l'altro in che ruolo, Tommaso? Io sono ricevitore. Quindi insomma abituato a correre veloce. Sì. Ecco, perdonerai se di fronte pure a un palmarès sportivo certo non banale preferiamo oggi a bordo campo esaltare l'altro tuo ruolo che poi forse è il principale, quello di ingegnere aerospaziale, perché in questa veste insieme a 2 altri sportivi, no? Il 27enne Ernest Vittorio Edler, istruttore di windsurf, e Lucio Pinzoni, tennista, avete messo a punto questo oggettino che prima ho provato a descrivere, 30 grammi di peso, 1 centimetro per 3,5 centimetri di ingombro, che in realtà è un sensore che quanto e come potrà essere utile ai nostri azzurri in Brasile? Fondamentalmente traccerà le performance di allenamento di forza che gli azzurri faranno per prepararsi al mondiale, quindi quella che diciamo più comunemente viene definita la preparazione in palestra, ecco. Quindi con questo aggeggino piccolissimo, perché a descriverlo su per giù sarà grande come un pollice, no? Se non sbaglio. Sì. Ecco, messo addosso si potranno avere tutti i rilievi fisici in merito a Montolivo, piuttosto che a Balotelli, piuttosto che a Buffon, piuttosto che a Pirlo, no? Per quanto riguarda il lavoro in palestra. Esatto, esattamente. Il sensore è sviluppato ed è stato pensato perché abbia la massima usabilità in palestra, interferisca il meno possibile negli allenamenti, quindi una persona, l'atleta lo monta sulla resistenza che sta utilizzando, quindi il bilanciere, il manubrio, il kettlebell, le corde, piuttosto che la semplice macchina da peso o al corpo libero, e inizia ad allenarsi dopo aver settato nell'app i parametri necessari all'allenamento, quindi il peso fondamentalmente e l'obiettivo dell'esercizio. In questo modo poi il sensore trasmette i dati all'applicazione tramite Bluetooth e sull'applicazione del telefono si hanno quindi i dati di forza espressa, velocità, potenza del movimento, l'esplosività che è un parametro importantissimo per sport come il calcio e l'assetto del movimento. Ti pare poco in quei pochi centimetri tutta questa roba, ma senti, ti chiedo, è applicabile anche per quanto riguarda gli allenamenti sul campo, gli allenamenti all'aperto? Al momento no, però prevediamo sviluppi in questa direzione. Cioè, già sarete pronti con questo sviluppo per il Brasile? Non lo sappiamo ancora al momento, vorremmo riuscire a farlo, sì. Quindi insomma gli azzurri sto cosino non solo se lo dovranno portare in palestra, ma anche probabilmente magari con un giubbottino, no? Con un, anche sul campo. Ecco, tra l'altro, applicazioni, sensore questo che non nasce con un'applicazione, con un obiettivo direttamente sportivo, no? Io non sono un grande esperto, ma di solito questi marchi ingegni vengono sviluppati prima in altri settori, no? Sì, sono utilizzati ormai da un po' di anni già nell'aeronautica e nell'industria spaziale per ricevere la telemetria, per esempio, dei satelliti piuttosto che dati relativi al volo, agli sforzi a cui sono sottoposti le strutture di volo negli aeroplani. Come mai vi è venuto in mente poi di poter trovare quest'altra e così diversa applicazione? Perché la mia passione è sempre stata lo sport e negli ultimi anni di università, quando questa tecnologia iniziava a diventare, diciamo, quando è iniziata a diffondersi, io stavo studiando anche per certificarmi come personal trainer e studiando la teoria dell'allenamento ho notato che tantissime ipotesi che si facevano e tantissimi parametri che andrebbero misurati per, diciamo, rendere più efficiente l'allenamento in realtà non erano misurabili se non in laboratorio con attrezzature che erano abbastanza costose e soprattutto poco portatili e molto ingombranti. Sapevo che c'erano invece delle strumentazioni che avrebbero consentito in futuro di fare queste misure molto facilmente e quindi ho iniziato a lavorarci. Senti, ma questo, spiegaci un attimo un altro mistero, un altro segreto. Questo piccolo sensore potrebbe anche essere utile per andare a riacciuffare qualche azzurro che dovesse perdersi dietro le gonnelle di qualche ballerina brasiliana oppure no? Ma diciamo che un eventuale, cioè sarebbe, è utile per prevenire, per esempio, i decadimenti a livello di performance sul campo, quindi si può ad esempio stabilire che quando un atleta è in una fase sta per avere una fase di affaticamento piuttosto che sta entrando in forma e quindi queste cose magari un atteggiamento del genere magari non verrebbe colto, diciamo, in flagrante, ma il preparatore può. Certo, potrebbe chiedersi come mai questo calo improvviso di forma, insomma, ieri sera dove sei stato? Beh, questi saranno problemi che dovrà risolvere l'entourage del CT Prandelli e staremo a vedere. Ma al di là delle battute, come è stata accolta questa novità? Beh, direi bene perché la nazionale l'ha subito adottata, ma soprattutto come siete entrati in contatto con l'entourage del CT e come avete proposto questa idea? Allenandoci in palestra, fondamentalmente tramite una serie di contatti praticamente casuali. Vittorio si stava allenando in palestra per testare certi sviluppi che avevamo fatto e una persona l'ha notato perché usava il computer, allora avevamo una demo sul computer, gli ha chiesto informazioni e poi da lì io conosco un tizio che conosce un tizio che conosce un tizio, siamo arrivati praticamente a parlare con i preparatori della FIGC. Questo è molto old economy, concedimelo però. C'è anche molto del lavoro del Politecnico di Milano però, no? Che vi sta assistendo come startup nello sviluppare questo progetto. Al momento siamo associati a PoliHub, che è l'acceleratore di impresa gestito dalla Fondazione del Politecnico di Milano e che ci sta dando una mano soprattutto a livello amministrativo e per organizzarci come azienda, proprio perché stiamo partendo da zero. Cioè, noi avevamo un'idea che era appunto questa di questo sistema di allenamento, abbiamo partecipato ad un concorso, li abbiamo vinto, ma un conto è avere l'idea su carta, un conto è svilupparla ovviamente. Ecco, pensando invece a quelli che saranno gli sviluppi immediatamente futuri, è pensabile, Tommaso, che questo sensore possa essere utilizzato anche a gara in corso per rilevare, magari per aiutare il tecnico a stabilire il momento esatto in cui sostituire un giocatore affaticato? Sì, ma ci sono già delle tecnologie che consentono di fare delle rilevazioni simili. Quindi sarà straordinario quando il giocatore dice no mister, sto benissimo, tutto a posto, dai continuo altri 10 minuti, invece il mister interviene e dice guarda che il sensore mi ha detto di no, esci fuori, quindi bisognerà litigare pure col sensore oltre che col giocatore. In realtà Sì, in realtà questa è una cosa su cui puntiamo molto anche noi. Il numero e la performance, diciamo, la performance è definita sempre dal numero. A me, anche se sono ingegnere, piace sempre ricordare che comunque c'è un lato, diciamo, emotivo, cioè il classico cuore che va a definire poi il carattere dei giocatori in campo e diciamo, a quello non si potrà mai dire no. Diciamo, sono le emozioni che ci spingono soprattutto nello sport. Quindi, insomma, il CT Prandelli potrà ancora metterci del suo per spingere, per spronare magari un Balotelli a fare uno scatto in più verso quel pallone potrebbe voler dire Coppa del Mondo. Sì, ma anche noi soprattutto puntiamo proprio su quello. Noi puntiamo a mostrare il dato non solo al preparatore ma anche all'atleta, proprio per motivarlo nello sforzo, in modo che sia diciamo facilitato nell'esprimere il massimo delle sue prestazioni proprio quando si allena. L'allenamento è la preparazione alla gara e quindi è il momento in cui tu ti costruisci la vittoria. E tante volte uno ha un impegno che non è proprio imminente, per cui l'intensità con cui si allena è minore di quella che invece sarebbe richiesta. Noi vogliamo portare gli atleti a dare il massimo e aiutarli proprio in questo senso. Anche perché, se, e correggimi se sbaglio, se è vero che il futuro si sta rapidamente avvicinando nella misurazione di questi dati fisici, un campo ancora più sterminato e forse ancora più inesplorato è quello in cui vengono misurate gli effetti su questi dati fisici delle reazioni psicologiche, no? Faccio l'esempio: un giocatore che trova una motivazione straordinaria nel voler dedicare un gol alla mamma o alla fidanzata, probabilmente ci mette un qualcosa in più che si tramuta anche in un dato fisico che poi il vostro sensore riesce a rilevare. Esatto. Quello che noi vogliamo fare è riuscire a tirare fuori, abbiamo chiamato Beast apposta, cioè vogliamo riuscire a tirare fuori la bestia che è in ogni atleta. Beh, Tommaso, che dire, ti chiedo, oltre a fare l'in bocca al lupo a Beast e alla vostra startup e a Polyhub, ti chiedo anche, alla luce di quella che è la tua esperienza, qual è il prossimo passo che dobbiamo aspettarci su questo sentiero, su questa strada che ormai è stata aperta del matrimonio tra tecnologia e sport professionistico? Beh, sicuramente gli sviluppi lato campo che ti dicevo sarebbero ottimi, perché sarebbe fondamentale riuscire ad abbinare i dati sulla preparazione in palestra a quelli sulla preparazione poi in campo, perché un atleta può muoversi con i pesi piuttosto che con qualsiasi tipo di allenamento che lo prepara, ma questi miglioramenti vanno convertiti in miglioramenti delle prestazioni in campo. Grazie ancora a Tommaso Finadri per essere stato nostro ospite. Tutte le informazioni su questo sensore le trovate sul sito thisisbeast.com. Ora una breve pausa, poi ancora insieme qui a Bordo Campo. A Bordo Campo. Torniamo a parlare di scommesse e gioco legale e illegale qui a Bordo Campo oggi, perché lo sapete, è uno dei temi caldi legati allo sport italiano-europeo e in qualche modo a Bordo Campo da questo punto di vista è un osservatorio attento e privilegiato. Lo facciamo con Massimo Passamonti, presidente di Confindustria Sistema Gioco Italia. Benvenuto dottor Passamonti a Bordo Campo. Buonasera, grazie. Beh, perché l'abbiamo chiamata, dottor Passamonti, oltre che per la sua esperienza e competenza in materia, anche perché recentemente proprio Sistema Gioco Italia è stato promotore di un importante convegno a Roma sul tema scommesse. Ora, direi che iniziativa, ahinoi, certo non nuova, perché il problema è quanto mai urgente e necessita di una soluzione di linee guida ben definite. Mi sembra che rispetto a quello che è il quadro generale italiano-europeo, alcuni passi avanti negli ultimi mesi siano stati fatti, no, dottor Passamonti? Assolutamente sì, dal punto di vista, diciamo così, del rafforzamento delle iniziative per quanto riguarda le modalità di controllo degli eventi sui quali si scommette. C'è stata questa importante manifestazione a Roma con la presenza di Europea Lottery, una società francese specializzata nel controllo appunto dei movimenti sulle scommesse, che si chiama Iris, che ha testimoniato come siano stati fatti notevolissimi passi avanti e dal punto di vista della collaborazione internazionale credo che l'Italia sia uno dei paesi che, a detta proprio anche degli ospiti stranieri, è considerato una sorta di benchmark come positivamente, nel senso che i nostri sistemi garantiscono un monitoraggio costante e da questo punto di vista i risultati credo hanno già testimoniato un'azione efficace. Altro discorso è quello della rete entro, che raccoglie le scommesse. Proprio a questo proposito, le chiedo intanto di fotografare il fenomeno di gioco illegale al momento attuale in cui parliamo, di quali numeri, di quali cifre stiamo parlando? Parliamo di cifre preoccupanti, perché come ho avuto modo di dire in questi giorni, io pensavo che questo problema si potesse risolvere già, fosse già risolto nel 2000 quando lo Stato ha legalizzato appunto le scommesse sportive. Insomma, voglio ricordare che la legalizzazione delle scommesse sportive è avvenuta dopo 20 anni dal primo caso di calcio scommesse, no? Scoppiato nel nostro paese, no? Quindi evidentemente il tempo di maturazione è stato così notevole, ma quello, la legalizzazione delle scommesse, che voglio ricordare è partita nel 2000 e ha intercettato un mercato illegale, perché prima del 2000 le scommesse sul calcio e su altri sport erano tutte illegali nel nostro paese, ha intercettato una domanda di gioco in mercato illegale che vale oggi circa 4 miliardi di euro. A fronte di questo recupero enorme, che ha recuperato il gioco illegale e ha anche intercettato un favore chiaramente del pubblico, perché guardarsi una partita e avere anche il sale, no, della scommessa sull'evento che si sta guardando può essere una cosa divertente, è evidente che si è purtroppo dovuto constatare che ad oggi siamo arrivati al paradosso che dopo pochi anni una rete non autorizzata, cioè che non ha l'autorizzazione dello Stato italiano e degli organismi competenti, dei vari organismi competenti dello Stato italiano, ha raggiunto una dimensione uguale se non superiore a quella della rete legale. Ecco, mi scusi, dottor Passamonti, una domanda magari banale, ma perché? Cioè, perché questa rete illegale attrae ancora tanti scommettitori? Perché pagano di più, perché pagano più rapidamente? Ma è evidente che una rete non autorizzata, bisogna utilizzare bene il termine non autorizzata, perché sul piano dell'illegale chiaramente si sconfina in un campo di contenzioso giudiziale in corso. La rete non autorizzata è completamente libera dagli oneri sia di concessione sia fiscali che gravitano sull'operatore autorizzato, poiché la scommessa, come qualsiasi altro prodotto, è gravata da una tassa all'origine, pagata dallo scommettitore e quindi offerta con questo aggravio dall'agenzia autorizzata, è evidente che le quote, che sono quelle che poi il cittadino, lo scommettitore compra, nel circuito non autorizzato, non avendo gravami fiscali, possono essere più attrattive. Certo. E quindi è evidente che la gente, non avendo la percezione di chi è autorizzato e chi no, perché se quello che non è autorizzato comunque resta aperto, il cittadino non è tenuto a sapere se quello è autorizzato o non autorizzato, compra il prodotto, in questo caso la quota di un evento, dove gli conviene di più. Questo è poco ma sicuro. Senta, è un momento in cui tutti chiedono qualcosa al nuovo governo e al nuovo premier Renzi, e da questo punto di vista anche lei si vuole aggiungere e chiedere qualcosa, un intervento specifico, se sì? Ma guardi, io credo che basti la riflessione semplice che fortunatamente ho avuto modo di verificare in questi giorni a livello di massime autorità dello sport italiano hanno cominciato a fare. Basta considerare che la rete autorizzata, legale, di offerta di gioco pubblico garantisce all'erario una quota consistente delle risorse che lo Stato italiano destina allo sport italiano, tramite il CONI e quindi attraverso il CONI anche la Federazione Gioco Calcio, per capire quante risorse vengono sottratte da una rete che opera sul territorio senza pagare nessun onere fiscale a vantaggio dello Stato. Risorse che non danno un euro di contribuzione allo sport italiano. E quindi già dovrebbe essere stimolo più che sufficiente, soprattutto di questi tempi. Senta, a proposito invece di sanzioni per i tesserati, no? Sappiamo quanto si parli anche della formazione, sia dei giocatori, dei calciatori, sia degli sportivi in generale, e alla loro sensibilizzazione rispetto al tema. Ecco, mi ha colpito anche questa proposta, uscita dal convegno che avete organizzato, della possibile confisca dei beni ai tesserati scorretti. Mi sembra una proposta nuova in questo senso, e che va nella direzione del fatto che se metti le mani nelle tasche di queste organizzazioni è quella forse la punizione che temono più di tutte, no? Assolutamente sì, questa proposta l'ha fatta il presidente Abodi, il presidente della Lega B, io la trovo assolutamente condivisibile, assolutamente di buon senso e assolutamente utile, secondo me, rappresentare un deterrente serio nei confronti di comportamenti deviati e scorretti, perché ricordo a tutti che, ed è questo l'interesse di tutti, di chi opera legalmente nel mondo della raccolta delle scommesse e così di chi opera legalmente e lealmente nel mondo dello sport, che gli eventi truccati, partite manipolate, circuiti non autorizzati, sono un danno enorme che si fa alla rete legale e agli interessi legali dello Stato italiano, perché è evidente che oltre alla sottrazione di risorse finanziarie vi è un danno di immagine e di credibilità che alla fine colpisce anche, come dire, la forza morale, no, del lavoro che si deve fare, soprattutto in un campo come quello dello sport. Quindi di fatto c'è una svalutazione del brand, ecco, questo è forse il danno più importante. Esattamente, che deve essere un brand limpido e forte. Beh, Massimo Passamonti, presidente di Confindustria Sistema Gioco Italia, direi che qualche piccolo passettino in avanti lo si sta facendo in un cammino che è ancora molto lungo. Mi sa che andremo a risentirci presto, dottor Passamonti, magari però per commentare qualche altro risultato positivo. Molto lungo e molto faticoso, ma insomma andiamo avanti. Anche per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito www.radio24.it, scaricare anche dal sito il podcast di A Bordo Campo, dialogare con noi attraverso il blog e scriverci alla mail abbordocampo@radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend. A Bordo Campo torna domenica prossima, sempre alle 16.30, e in replica ogni sabato mattina alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.